Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Nei giorni scorsi è stato celebrato, seppur in sordina e con interventi virtuali online, dei principali leader mondiali, l'anniversario dei 75 anni dalla nascita delle Nazioni Unite. Ai tempi del Covid non si poteva fare diversamente, ma nonostante questi limiti, l'occasione dell'anniversario pare utile per riflettere sul ruolo oggi dell'ONU, dei limiti e delle difficoltà emerse in questi 75 anni e dei possibili sviluppi per gli anni a venire. Ne parliamo questa sera con l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto degli Affari Internazionali. L'ambasciatore Nelli Feroci è stato tra l'altro rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles, capo di gabinetto e direttore generale per l'integrazione europea presso il Ministero degli Affari Esteri. Buonasera ambasciatore e benvenuto. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Sulla scia della Grande Depressione e nel mezzo del secondo conflitto mondiale, i leader di Stati Uniti, Unione Sovietica, Repubblica Popolare Cinese e Regno Unito si incontrano a Washington per ragionare su una nuova architettura internazionale da mettere in piedi. Una volta terminata la guerra, sulle macerie della fallimentare Società delle Nazioni. È il 1944. L'anno successivo, 50 delegazioni provenienti da altrettanti paesi si danno appuntamento a San Francisco, dove dopo due mesi circa di negoziati, il 26 giugno 1945, firmano la Carta delle Nazioni Unite. Da allora, l'Organizzazione delle Nazioni Unite è cresciuta sino a contare 193 paesi membri e due osservatori, Autorità Nazionale Palestinese e Stato del Vaticano. La rivoluzione digitale ha agevolato il processo di integrazione incompiuto definito come globalizzazione. L'Unione Sovietica è implosa nel 1991. La Cina ha acquisito il ruolo di player mondiale e di seconda più grande economia del pianeta. Dal bipolarismo sancito sulle mappe dalla cortina di ferro disegnata nel dopoguerra, ci si trova oggi davanti a uno scenario di rischio di nuova bipartizione tra Stati Uniti e Cina, come affermato dal segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Ambasciatore Nelli Feroci, partiamo proprio da qui, dal ruolo che l'Europa può giocare nell'attuale complicato e mutevole scenario internazionale, con assetti ed equilibri che ora vengono messi nuovamente a dura prova dalle conseguenze della pandemia. Ecco, cosa pensa al riguardo? Io penso che l'Europa e l'Unione Europea hanno un interesse vitale al mantenimento e al rafforzamento di un sistema multilaterale regolato e condiviso, sulla base di regole condivise, e garantito da istituzioni multilaterali efficaci e riconosciute come legittime. Questo è un compito enorme che l'Unione deve svolgere in un contesto internazionale molto complicato, come è stato descritto nelle parole che hanno preceduto la mia risposta, e molto diverso da quello che nel 1945 aveva consentito la nascita delle Nazioni Unite, caratterizzato da un multipolarismo instabile, senza che ci sia più una potenza egemone, come era il caso del 1945, in grado di imporre e di far rispettare delle regole, e caratterizzato per di più, come abbiamo visto in questi ultimi anni e mesi, da una rivalità sistemica, da una competizione strategica tra la Cina e gli Stati Uniti, che rischia di riportarci per certi aspetti al clima della guerra fredda. Però diciamo, per l'Europa è vitale impegnarsi per rafforzare un sistema multilaterale efficace nel quale l'Europa potrà dare il meglio di sé. Ecco, che bilancio si può trarre a suo avviso dei 75 anni di vita delle Nazioni Unite? Certo, il modello multilaterale di cui parlava è sicuramente da perseguire, tuttavia pare in crisi anche almeno dall'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca, ma è una crisi irreversibile? Beh, il contesto internazionale è cambiato in maniera drammatica rispetto al 1945, agli anni in cui la potenza vincitrice, la potenza egemone, intesa con le altre potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, avevano ricostruito un tessuto di rapporti internazionali che si fondava da un lato sulle Nazioni Unite e dall'altro sulle istituzioni di Bretton Woods. Le Nazioni Unite hanno assolto il loro compito fino ad un certo punto, sono sostanzialmente entrati in una sorta di crisi quando il contesto multilaterale è cambiato, soprattutto quando le sfide sono cambiate. Erano state concepite ed erano nate come un'organizzazione internazionale che aveva come scopo principale quello di garantire pace e stabilità e risoluzione dei conflitti. Le sfide che oggi sono di fronte alla comunità internazionale sono molto più complesse. Resta naturalmente il tema della pace e della sicurezza, ma ci sono sfide nuove che vanno dalla garanzia di un sviluppo economico inclusivo e di uno sviluppo sociale ugualmente inclusivo, alle sfide globali più recenti, dalla sicurezza cibernetica alle pandemie, come è stato dimostrato in maniera drammatica dalla recente pandemia del Covid. Le Nazioni Unite dovranno fare uno sforzo per adattare il loro statuto, la loro mission, ad un contesto molto cambiato rispetto al 1945. Ecco, ci si avvicina a grandi passi alle elezioni presidenziali americane del 3 novembre, al netto del Covid, che come abbiamo visto ha coinvolto anche lo stesso Trump, quindi vediamo come andrà a finire. Ma comunque Trump, nel corso del suo intervento all'Assemblea delle Nazioni Unite, ha accusato senza mezzi termini la Cina di aver infettato il mondo con il coronavirus. Certo, c'è la campagna elettorale, ma le accuse non sono per questo meno gravi. La rivalità, la competizione strategica tra Stati Uniti e Cina rischia di diventare il dato caratterizzante del contesto internazionale nei prossimi anni. Lo è già di fatto ora e temo che sia destinato a rimanere anche se Trump non dovesse essere rieletto. Vedo un consenso bipartisan nella Foreign Policy Community e in congresso negli Stati Uniti sull'idea che oggi come oggi la Cina è una minaccia a tutto campo. Noi in Europa abbiamo una visione diversa della Cina, siamo convinti che dobbiamo affrontare il rapporto con la Cina con tutta la prudenza del caso, non siamo ancora arrivati al punto di considerare la Cina una minaccia per la nostra sicurezza. Credo che anche se Biden dovesse vincere le elezioni, questo tema della competizione strategica rimarrà nell'agenda di Washington e in qualche modo quindi di Pechino. Probabilmente cambieranno i toni, c'è da sperare che si arrivi ad una competizione più fair, più equilibrata, meno caratterizzata dai toni accesi tipici dell'attuale presidente in carica alla Casa Bianca. Ecco, nel suo, e questa è l'ultima domanda che volevo porre, ambasciatore, nel suo personale bilancio sui 75 anni di vita dell'ONU, il segretario generale Antonio Guterres ha spiegato che il principale successo dell'organizzazione è stata l'assenza di grandi conflitti tra le maggiori potenze mondiali e la minaccia sventata di un conflitto nucleare tra blocchi contrapposti. Ma il più grande fallimento invece è stato l'incapacità di impedire la proliferazione di conflitti di dimensioni piccole e medie. Ecco, ma secondo lei questo è un bilancio credibile? Cioè è proprio così? Questa è un'analisi corretta fondamentalmente e all'origine di questa incapacità, di questa inadeguatezza delle Nazioni Unite c'è il problema del funzionamento del Consiglio di Sicurezza. Sì. Se si va a ripercorrere lungo tutti questi anni il numero di occasioni in cui il Consiglio di Sicurezza è stato paralizzato dal veto di questa o di quella grande potenza detentrice del potere di veto, si dovrà registrare che purtroppo le divergenze a suo tempo, per esempio tra Unione Sovietica e Stati Uniti, oggi tra Cina e Stati Uniti, hanno impedito di fatto al Consiglio di Sicurezza di svolgere quel ruolo che avrebbe dovuto svolgere nella prevenzione e nella soluzione dei conflitti. Però va detto anche che oggi le Nazioni Unite svolgono un ruolo molto importante in operazioni di mantenimento della pace, sono presenti in numerosissimi paesi e sono presenti con una funzione di stabilizzazione che comunque gli va riconosciuta. E poi dal punto di vista economico c'è un ruolo importante che le Nazioni Unite possono svolgere per, come dire, accelerare la ripresa globale dopo questo disastro della pandemia, quindi anche migliorare le prospettive per una nuova governance globale che sia più reattiva e più equa. Quindi anche questo è un aspetto non da poco. Sì e no, perché in fondo, diciamo, le competenze delle Nazioni Unite in materia economica sono molto circoscritte. Certo. E diciamo anche che le istituzioni di Bretton Woods, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, ma la stessa Organizzazione Mondiale del Commercio, a stretto rigore non appartengono al sistema delle Nazioni Unite e non hanno mai accettato di farsi dettare le regole del gioco o anche le direttive dal sistema delle Nazioni Unite. Quindi purtroppo nel settore esattamente quello che lei cita, economico-sociale, le competenze sono molto molto deboli e al massimo si possono esprimere con la formulazione di raccomandazioni, di indirizzi di massimo. Certo. Non hanno le Nazioni Unite nessun potere di adottare misure operative o regole del gioco vincolanti. Bene, ambasciatore, noi la ringraziamo veramente molto per essere stato con noi. Abbiamo parlato appunto dell'anniversario dei 75 anni dalla nascita delle Nazioni Unite. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, a risentirci alla settimana prossima. Buona serata a tutti. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.